Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Misura e controlla la tua pressione per vivere più a lungo. E questo è il messaggio della 16ª giornata mondiale contro l'ipertensione che si celebra domani, 17 ottobre, a Obiettivo Salute. Il professor Claudio Borghi, ordinario di medicina interna all'Università di Bologna e direttore scientifico della Società Italiana Ipertensione Arteriosa. Professor Borghi, buongiorno. Buongiorno a voi. Professore, allora raccogliamo l'invito e misuriamoci la pressione. Come si misura? La pressione si deve misurare in condizioni standard, bisogna essere rilassati, tranquilli, tenendo la schiena bene appoggiata alla sedia, con il braccio all'altezza del cuore e avendo l'accortezza di misurarla almeno 3 volte, scartando la prima, facendo la media delle 2 misurazioni successive. Questa è una regola semplicissima che ci renderà quei valori che per noi sono indispensabili. Professor Borghi, sono oltre 15 milioni gli italiani ipertesi, ma solo una persona su 4 ha la pressione ben curata. Sì, purtroppo questo è un grande problema ed è un problema legato sostanzialmente al fatto che una parte importante non sa di avere l'ipertensione, quindi non si misura la pressione, non se la misura in maniera sufficiente per poter fare la diagnosi. E nell'alta percentuale dei casi si tratta di pazienti alcune volte trattati in maniera inadeguata, altre volte che non assumono in maniera continuativa la terapia. Hanno una condizione che si chiama scarsa aderenza al trattamento farmacologico, che non controlla la pressione e aumenta l'incidenza di complicanze. Purtroppo recentemente alcuni farmaci antipertensivi sono stati messi sotto accusa come potenzialmente responsabili dell'aumento dell'infezione da Covid, e questo è profondamente sbagliato, perché questa informazione non solo corrisponde alla verità, ma naturalmente ha contribuito ad abbassare ulteriormente l'aderenza al trattamento e a peggiorare il controllo. Per contro, i dati più recenti dicono esattamente il contrario. Quegli stessi farmaci accusati, sarebbero ACE inibitori e sartani, sono invece probabilmente indispensabili per migliorare la prognosi dei pazienti affetti da Covid, e quindi si è realizzata pienamente la favola del brutto anatroccolo. Professor Borghi, grazie per essere stato con noi. Ricordo che proprio oggi il professor Borghi è protagonista del nostro spazio A Tu per Tu, e continueremo a parlare naturalmente di ipertensione, i fattori di rischio, come evitarla, che cosa fare, i valori. Quindi seguiteci sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute. Grazie professor Borghi, a presto. Grazie a voi, buona giornata. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.